che è tutta una bugia, la più bella che ci sia. Faccio a pezzi un altro pezzettino del mio straccio di bambino. Dentro un uomo c'è di tutto, dolce e mostro. Allora faccio il vuoto intorno e tutti appesi alle mie labbra. M'è compreso che ci vivo, m'è compreso che ci muoio. So che è tutta una bugia. Non si può pensare di chiudere la nostra esperienza col fuoco. Il fuoco ci rafforza. Questo corteo dimostra che il cartello, in realtà, che in questi anni ha lavorato tanto, ha lavorato non per fare soldi come vorrebbero fare in quest'area, ha lavorato per costruire auto-organizzazione, ha lavorato per costruire cultura, ha lavorato per costruire dissenso alle politiche che vogliono vendere questi territori, alle multinazionali, ai privati, alle lobby di interessi. Per questo non ci possiamo fermare, per questo non ci fermeremo. Uno sguardo arduo e fiero che rincorre l'aldilà. Non lo salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, oh battagliero. Battagliero, un concorso al ministero segna la maturità. Battagliero, rispettoso lusinghiero, il giudizio che si dà. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà. Apprendista dell'impero, oh, oh battagliero. Battagliero, il serraglio di un impero con un limite d'età. Battagliero, un giaccone color nero marca la diversità. Non lo sa. Anche la fissione brucia, ma non si ferma come il cartello. Continuiamo. Ringraziamo il quartiere, ringraziamo la città, ringraziamo tutte e tutti quelli che in questi giorni ci hanno dimostrato la loro solidarietà. Noi ricostruiremo il cartello, lo ricostruiremo più grande e più bello di prima. Lo ricostruiremo come abbiamo sempre fatto, dal basso, attraverso l'organizzazione, l'autofinanziamento. Perché è quello che abbiamo costruito in questi anni. Una pratica diversa, la pratica che non vogliono... Che si diffonde in questa città. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero. Corre in cielo, corre in cielo, oh battagliero. Andiamo, andiamo, andiamo. Regina. Bla bla bla bla. Libero tra i liberi, povero tra i poveri. Le lotte sociali dal basso non si fermano. Siamo qui come ieri, come oggi, come domani. Non ci fermeranno, non si possono fermare. Gli economisti fanno flop, faranno flop. La gente, noi, i nostri fratelli, i nostri fratelli immigrati, i nostri fratelli che ogni mattina si alzano e prendono il proprio valore, le proprie responsabilità. Ci chi manda la tua famiglia, chi va a lavorare, chi va a lavorare precario, chi va a lavorare con la, chi va a lavorare con la parte del mondo. Accolato, e come da sempre, con gli stessi contatti, con il non ti abitare, e questo lo puoi conquistare. E coi belli questa è la paura, nel momento in cui stanno scatenando l'inferno, nel momento in cui l'Europa, le operazioni, le banche, le multinazionali chiamano a banca in cassa. Mi blocca il banco, ma questi blocca posti fanno paura, questi posti sono da chiudere. Un branco di lupi nella testa a cui mi dedico, sono un poeta eretico, sempre sotto lo zero, addosso un'ombra nera, sopra il mio ciaccone nero, scendo le scale piano, tutto va in malora, è un postino al portone, mi porta a visi di mora, non mi avranno ancora, voglio il mio pasto ricco, faccio poco il gasto, il mondo è a picco, la gente si impicca, con la corda al collo, pieno di persone, solo un passo dal tracollo, nel profondo rosso. E anche il direttore ha le sue ore in cima al pozzo, con la patente per l'usura strozzo. Io sono un vulcano acceso, ho mano rami ardenti, sono ben difeso, sto con gli indipendenti. Welfare dal basso, super high tech, è sempre attuale il mio compare saggio Bertolt Brecht. I banchieri fanno crack, fanno crack. Gli economisti fanno flop, fanno flop. Noi ribelli, oh. Oggi lanciamo una sola parola d'ordine: il dissequestro immediato dell'aria. Non è possibile che venga punito chi subisce in questa città e non chi compie gli attentati. Vogliamo il dissequestro immediato dell'aria, vogliamo ripulire subito l'aria, vogliamo ricostruire tutto, vogliamo ridarla al quartiere, ridarla a chi questi anni ha vissuto il parco Cartella, no, a chi questi anni l'ha tenuto abbandonato. Io la vendo cara la mia pelle, ho credito in giro per rimettermi in pareggio, mai stato un crumiro, sono come il male e il peggio, saldo tutti i conti meglio di Tremonti, i miei ori sono orizzonti contro gli orizzonti. Ora datemi un compagno, uno di cui mi fido, se ci sta qualcuno uno qui adesso faccia un grido, che chi chiama il mio nome, un rom che passa e fa riciclo in un secchione, noi siamo sempre avanti ovunque trovo beneficio, ci siamo presi anche un ex alumificio, dove c'erano salumi ora c'è spazio, aria, beni comuni, vita straordinaria, nel profondo rosso, eccolo il lusso, io non chiudo, io li apro i posti nel profondo rosso. C'è tensione in corso. Ringrazio chi mi ha fatto naturale, non la vedo più la tele né nessun telegiornale. Faccio macro bios, vita bella, vita grande, come l'Indios nelle Ande, pago tutto con il sangue. I banchieri fanno crack, fanno crack. Gli economisti fanno flop, fanno flop. Noi ribelli, on the street. Portiamo il pathos contro lo shock. Io sto con Margherita Hack, sto con i pionieri dell'hip hop, e you don't stop, e coi ribelli on the street. Scegliamo i morti sotto show, soldati di clandestini, sound system. Fondamentale non stare nello star system, siamo la strada che resiste, la strada che insiste, assalti sound system. Siamo quelli che non ci fermiamo, siamo quelli che si mettono di traverso, oggi, domani, sempre e comunque resistenti, sempre e comunque presenti, dovunque ci sia uno sfruttato, dovunque ci sia qualcuno che stia male, dovunque gli è necessario che ci sia una solidarietà dal basso, dovunque le cazzo di istituzioni non fanno il loro dovere, ci sono dei compagni, ci sono delle persone che lottano, ci sono delle persone vive, delle persone che si possono guardare in faccia, guardare negli occhi e misurare e confrontarsi su quelli che sono i reali problemi di questa società di merda. Non esiste un precariato, non esiste il fatto che se uno ha la pelle diversa non trova come misurarsi e trovare un posto per cui stare, per cui mangiare. I centri sociali servono a questo, i centri sociali rappresentano oggi la spina del fianco del governo Monti, e anche per questo sono sempre appesa in tutta Italia. E anche qui al sud, in Cartella, 10 anni di esperienza, 10 anni di rotta, 10 anni di vita, buttati in fumo, ma noi non ci fermiamo, ma non ci fate soltanto perdere tempo, esistiamo. Ogni respiro si deve risparmiare. Non cerco Dio, Shiva Allah. Non credo in Rastafari, Satano già. Sono di passaggio, tempo scaduto. Mi spengo nel nulla, zerato il mio credito. Non cerco Dio, Shiva Allah. Non credo in Rastafari, Satano già. Ho vissuto molto, capito in istante. Giocato, sbagliato, ma sempre al presente. Hey Mr. Tommy, want to tell you something. Ho vestito in conoscenza, o meglio, la coscienza della mia conoscenza. Costa costantemente assorto, involata per la vita, ogni minuto pesa. Colpevole, assurdo. Hey, Mr. Time, we want to tell you something. Remember. Non cerco Dio, Shiva, Allah. Non credo in Rastafari, Satanoggia. Sono di passaggio. Tempo scaduto. Mi spengo nel nulla, zerato il mio credito. Non cerco Dio, Shiva, Allah. Non credo in Rastafari, Satanoggia. Ho vissuto molto, capito ogni istante. Giocato, sbagliato, ma sempre al presente. Some of them talking them off to run. Some of them are confused and they burst them up. Some are one bad man, them one pollution. Them one tribulation. Them a fool, yeah. Leave them down, chaffy rule, yeah. Fight them down, them a fool, yeah. Leave them down, chaffy, leave them down the time. Sono di passaggio, tempo scaduto. Mi spengo nel nulla, zerato il mio credito. Non cerco Dio, Shiva Allah. Non credo in Rastafari, Satanoggia. Ho vissuto molto, capito ogni istante. Giocato, sbagliato, ma sempre al presente. Tempo scaduto. Baciata dal sole, in questa terra baciata dal mare. Spesso volte ci sentiamo soli, spesso volte non abbiamo riferimento, però esiste un faro, esiste una luce, sono i centri sociali e con il cartella che in questi anni si è battuto con coraggio, con coerenza, dal basso, per l'acqua pubblica, per dare solidarietà ai migranti, per dare solidarietà alle opere inutili e costose come il NOTAV, dove spendono milioni per ogni centimetro e non hanno soldi per gli asili e non hanno soldi per le scuole e non ci sono soldi per le università e non ci sono soldi per i precari. Però esistono i soldi per arricchire le imprese che poi continuano a pagarci con quattro soldi di merda per uno stipendio da fame. I centri sociali oggi rappresentano una scena del fianco nel governo Prodi, nel governo Monti e in tutti i governi. Sono tutte cose come vino buono, capanna imbriagare. Ragusa ci su tutta micio marsala, ni pe pallute cantar c'è cala cala. I blarri spunni con BNG, facciamo un sinfonia e noi e ciao ciao Puncitì. C'è pure la piazzetta canna in Palermo, io ci arrestasse magari tutto l'inverno. E quando sento scruscio il cesso la cartella mai. In questi decenni di storia, di occupazione, ha sempre rappresentato un'alternativa nel nostro territorio. È sempre stato uno spazio fuori da ogni logica di mercato, fuori da ogni logica del profitto, ed è per questo che ha dato fastidio, ed è per questo che va sostenuto, e dobbiamo ricordare a tutte quelle realtà, a tutti quei compagni che ogni giorno condividono delle battaglie con noi, che questo è il momento di aumentare la nostra militanza, di aumentare il nostro impegno, difendere ogni spazio sociale fino all'ultimo. Il fatto di non fare un passo indietro non deve essere un semplice slogan, deve essere una pratica quotidiana, quella della riappropriazione dei nostri quartieri, delle nostre vite, del diritto alla casa, il diritto a vivere in una terra dove non sia, dove le popolazioni non siano sotto scacco e sotto la dittatura della mafia, dei poteri forti. Oggi la resistenza è un dovere, e resistendo dobbiamo far capire che chiunque toccherà gli spazi sociali pagherà caro e pagherà tutto. We are Skatronics Jamaica, and we've come here to scalsa ralsa dalsa your soul. Forward ever! Del porto balla con l'abito corto, rossa nella sera se ne va, una mattina ha preso la corriera perché voleva andare alla città, che il padre con la zappa le rubava tutta la felicità, trovata fu rinchiusa in un convento. Poi fuggì dall'aldilà. Con questa manifestazione vogliamo chiedere il dissequestro, vogliamo chiedere trasparenza, vogliamo capire quello che è il futuro del centro sociale Cartella, vogliamo capire qual è il futuro della nostra socialità, in un posto dove si poteva mangiare, si poteva bere, si poteva stare insieme, si poteva ascoltare musica tranquillamente, allegramente, senza stare alle mercificazioni, alle leggi del profitto, alle leggi del consumo. Thank you.

libertà. Se tu associ queste cose, fratelli, ti fa cura il fascismo. Non è libertà, il fascismo è una minaccia. E se uno già minaccia, fratellini, ora mi faccia. Liberi di comandare, di fare e di sfare. Liberi di violentare, uccidere e rubare. Liberi di snaturare uomini e culture. Liberi di abbaiare al comando del padrone. Liberi di grugnire, di farsi calpestare. Queste le libertà del vostro bel regime. Chi dice no al regime delle vostre libertà? Chi dice no al regime grida in coro Antifa. Alza sulle mani Antifa. La libertà è sempre di chi la pensa diversamente. La libertà è sempre di chi dal basso propone altro, un'altra visione del mondo, un'altra visione del territorio. Ricordiamolo, il centro sociale Cartella è da anni impegnato in battaglia in difesa del territorio, contro le discariche, contro le centrali, insieme alla rete difesa del territorio Franco Nistico, che è una delle esperienze che sta bloccando in Calabria le speculazioni sul nostro territorio. Ricordiamolo, ne è impegnato da sempre nelle battaglie contro il ponte. Siamo i gay, le lesbiche, siamo i nordafricani, siamo i ebrei, musulmani, siamo i cristiani. Vabbè, facci girare la curva. Tutti diversi e savera, siamo diversi e facciamo. Siamo tutti diversi, siamo tutti quanti uguali, siamo tutti color e poi siamo scuri. State sbagliando tutto se volete intimidire, ci state facendo soltanto incazzare. Non è questione di battere, ma se sapete difendere, tanto non c'ho cattamma, non c'ho prova a difendere. Non è questione di battere, ma se sapete difendere, tanto non c'ho cattamma, non c'ho prova a difendere. Alza sulle mani. Aldo. Bonsoir à tout le monde. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Je remercie à tout le monde ici présent. Io ringrazio tutti qui presenti per la partecipazione. Je salue tout le monde petit et grand. Io saluto tutti, grandi, piccoli. E avant de parler, je vais poser une question. E prima di parlare voglio porvi una domanda. Cet enfant que j'ai porté, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il veut? Questo bambino che io porto, voi sapete cosa vuole lui? L'enfant veut la liberté. Il bambino sicuramente vuole la libertà. Il vuole la santé. E gli vuole la salute. Il vuole vivere in paix. E gli vuole vivere in pace. E de nous les enfants à grandir. E sono i bambini a farsi grandi da noi. Avec son drapeau, c'est pas parce que il veut danser. Avec son drapeau, c'est pas parce qu'il veut danser seulement. Con questa bandiera egli non vuole solamente farla danzare. Mais aidons-nous les enfants à vivre en paix. Ma vuole dare, vuole darci l'esempio per vivere tutti noi in pace. aidons-nous les enfants à voyager et de connaître le monde à travers tous. E per noi questo bambino è dunque la finestra del mondo attraverso tutti. J'ai porté cet enfant, c'est parce que nous avons le même sang. E io porto questo bambino perché noi abbiamo le stesse facce, le stesse sangue. Lo stesso sangue. Lo stesso sangue. Aujourd'hui, nous manifestons pour le repos. C'est pas la vie éternelle, mais le centre social est en pause. Mais le centre social n'est pas mort. Allora, quello che ho capito, il patto sociale non è morto. Siamo qui non per vivere in eterno, ma per vivere tutti quanti assieme. Le centre social est à mi-temps. Il senso sociale è dentro di noi. Allora, avant le centre social était la lune. E prima del centro del senso sociale era una luna, la luna. C'era una luna. Mais maintenant le centre social va naître en soleil. Ma con il senso sociale si va a mettere un sole. Je remercie à tout le monde qui était venu ici. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti qui. Moi, étant représentant de Africa Labria. Io sono un rappresentante dell'associazione Africa Labria. Allora, je remercie et nous continuons à lutter pour les mauvais sorts. E io ringrazio ancora, noi viviamo e continuiamo a lottare. Merci à tout le monde. Grazie a tutti. Siamo qui per dire che la vita è bella, per dare solidarietà al cartella. Perché nel cartello si rivelano tutti i colori del mondo! Vogliamo un mondo di tutti i colori! Razzisti ed oppressori ne resteranno fuori! Vogliamo un mondo di tutti i colori! Razzisti ed oppressori ne resteranno fuori! Dai loro ingranaggi, noi fuori, dalle radio, dalle spiagge, dalle vacche grasse, fuori dai cortei, dalla burocrazia, fuori dalle fabbriche, dai musei, è dall'alto che ci dividono, è là in alto che inventano il pericolo. Dall'ansia di medaglie, noi gentile Reggio Calabria, solidale e onesta, diciamo, difendere il cartello è indispensabile per il vostro territorio pieno di contraddizioni, di fame, di ricatto sociale. È necessario sostenerlo, perché proprio le attività di cui il centro sociale è portatore sono fuori dalle logiche del mercato e del profitto che provocano e alimentano crisi economiche, perché tutti ne possono soffrire liberamente, perché è uno spazio dove i valori di giustizia, uguaglianza, riscatto sono la priorità, l'essenziale. A chi ha materialmente incontrato il centro sociale in tutti questi anni e ha tentato di denigrarlo ed emarginarlo, diciamo, se pensavate di chiudere un'esperienza ricca e bella, vi sbagliavate. Il centro sociale sarà ricostruito ancora più forte. Fuori. Se pensavate, ferma, se pensavate di isolare le persone che dentro volontariamente vi lavoravano e partecipavano, sbagliavate ancora, perché ci stringeremo ancora più intorno all'idea che un posto liberato dal consumismo, dal malaffare, dalla mafia, dalla burocrazia partitica è indispensabile, è necessario, è la regola. Se pensavate di screditare questa forza d'adozione in mezzo alla città, sbagliavate di certo, perché la gente ha risposto subito, immediatamente, scaldando i cuori di chi crede che la lotta sia un esercizio concreto per riscattarci da un destino segnato e che insieme il futuro può essere costruito. E lei nato che inventa un pericolo. Taranto, oggi è qui presente per sostenere, ora e per sempre, l'esperienza del centro sociale Angelina Cartella. Noi fuori dalle liste, dai concorsi, dalle carte, dalle curve, dai discorsi, dalle rotte, dalle risse, dalle caste, dalle crisi, dai teatri, dalle aste, dai contagi, dalla peste, dallo sfarzo e dalla miseria, dalle feste con le droghe serie, dai concerti con le sedie, dai solarium, dai cortili coi pavoni, dalle danze, dai condoni, da manzoni e da mameni, dalle condizioni dei finanziamenti, dai cimeli della brava gente, dai congressi, dalle marce, dai sondaggi di opinione, dagli asili e dalle pensioni. Noi fuori non sappiamo cosa fare. Sempre sani e spesi, sempre pesi e corsi, abite, cassaforti, borse, fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade pali in uro, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme, serrano le file.

questa occasione avrai. Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città. Non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si ballerà. Gallico, che per anni ha sostenuto il centro sociale Cartella. Non avete timore, non abbiate timore, uscite fuori dalle case, scendete con noi a manifestare, a dire con la vostra presenza: io sto col Cartella. Sempre più si sta muovendo la canzone della gente, dalla terra del rimorso, anomalia dell'Occidente. Sempre più sta diffondendo il suo ritmo e il suo suono, la canzone di una danza che ha a che fare col veleno. Vola, vola, ti non prepara scuola, impara a leggere, scrive, tanto impara a far l'amore. Vola, vola, ti non prepara scuola, impara a leggere, scrive, tanto impara a far l'amore. Sempre più si sta muovendo ai confini della storia, dalla piazza di Melpignano a... Oggi noi siamo qui per difendere tutti gli spazi sociali d'Italia, anche la sua boccaccia da Monza, la fabbrica occupata e gestita di Monza, è qui per esprimere solidarietà al Cartella e per dire che nessun incendio ci potrà fermare, niente e nessuno, tutti questi atti intimidatori non possono fermare questa grande realtà. E qui da tutta Italia noi vogliamo rappresentare la nostra città in difesa del Cartella, ora e sempre più spazi sociali! Contro i giochi del potere e del suo grande fratello. E balla, balla la nuova Italia in direzione ostinata e contraria, balla ritmo popolare di chi non ci vuole stare. E balla, balla la nuova Italia in direzione ostinata e contraria, balla ritmo differente di chi non vuole sapere. Di chi non ci vuole stare, non può terra e può mare, chi niente vuole sapere, che diavolo come me. E chi sono e chi non sono, perché auspicano le buone, chi niente vuole sapere, che diavolo come me. E chi corre, corre, corre, guarda solo che sta l'amore, chi niente vuole sapere, che diavolo come me. E chi balla, balla, balla, guarda solo che sta l'idare, chi niente vuole sapere, che diavolo come me. Sempre più si sta muovendo dalla terra di nessuno, per andare controvento con il vento del suo tamburo e per vincere nel mondo la scommessa. Gente, compagni di Gallico, scendete in piazza a fianco al Cartella, voi lo sapete, voi conoscete, voi capite, scendete in piazza, scendete qui in questo corteo per difendere l'unico spazio sociale della città, l'unico spazio sociale dove si può respirare l'aria della libertà, dove si può parlare, dove si può ragionare, dove si può guardare la gente in faccia senza avere paura. Scendete in piazza, chiudete la cazzo di televisione, scendete in piazza con noi. Sonanti della scuola di Fabrizio, della scuola dei briganti. E balla, balla la nuova Italia in direzione ostinata e contraria, balla il ritmo popolare di chi non ci vuole stare. E balla, balla la nuova Italia in direzione ostinata e contraria, balla il ritmo differente di chi non può sapere. Oh, non ci vuole stare. Balla, balla la nuova Italia in direzione segnata contraria. Balla il ritmo differente di chi non lo sa bene. Scendete in piazza, scendete qua con noi! Fa l'eco! Sfruttiamo l'effetto dell'eco, sfruttiamo l'effetto di questo ponte contro il grande ponte delle speculazioni finanziarie, perché è piccolo, è bello, vogliamo riapproparci della nostra vita, di quello che possiamo gestire, di quello che possiamo toccare, di quello che possiamo sentire. Non abbiamo bisogno delle grosse speculazioni, non abbiamo bisogno di quelle fiumi di soldi che si finiscono nelle mani dei soliti. Le banche, le imprese ci rubano il futuro. We sick and tired of being poor. Life is worth much more than silver and gold. Life. Give my children a better life. I want them to go to school and learn the golden rule. They won't become nobody's fool. This song belongs to everyone. No one stands alone. Long time I and I tried. Hanging on my pride, my dignity and my pride. Long time we have no fun. Let's laugh together now. Rasta, let's laugh together. Ha ha ha ha ha. Rasta, let's laugh together now. Ha. Rasta, don't cry. Rasta, bourgeois. I wanna see you smile. Rasta, bourgeois. Rasta, don't cry. Don't cry, don't cry. Rasta, bourgeois. Jaja, wanna see you smile. Sick and tired of being poor. Life is much more than silver and gold. Poverty and no fashion. Poverty, no profession. Poverty is a crime. Poverty, a social crime. Facciamo vedere lo striscione, Gallico sta con il cartella e invitiamo tutta la gente di stare col cartella, di scendere stasera lì che hanno provato a bruciare quella che è un'esperienza di 10 anni, 10 anni di lotta, 10 anni di resistenza, 10 anni di solidarietà dal basso, dove la gente si può guardare in faccia e parlare liberamente. La gente di Gallico lo sa, la gente di Gallico comincia ad avere più paura. Scendiamo in piazza col cartella, sosteniamo da tutta Italia, da tutti i centri sociali, da tutti i posti occupati. La, la, la, la, la, la. Compagni, compagni, cittadini di Gallico, anche l'Ampi di Reggio Calabria è presente oggi a dare la solidarietà al Cartella. Solidarietà fattiva, non una solidarietà di facciata, perché non ci piace e non ci interessa. Vogliamo sostenere la lotta del Cartella per la sua rinascita. Ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà una grande, moderna, efficace forma di resistenza contro ogni fascismo vecchio e soprattutto nuovo. Perché ricordiamoci che un tempo magari mettevano la camicia nera, oggi non mettono solo la camicia nera, oggi mettono anche il colletto bianco. Si possono chiamare mafia, ma il carattere è quello e non possiamo fermarci, perché ogni forma di democrazia, soprattutto quella che il Cartella rappresenta, che è una democrazia popolare, partecipativa, diretta, va sostenuta e aiutata. È una lotta antifascista, una lotta per la democrazia, per la libertà, e non possiamo e non dobbiamo fermarci. Ogni iniziativa presente e futura deve tenere presente la luce su quello che è successo qualche giorno fa. Vogliono distruggere la democrazia, vogliono distruggere quello che è il tentativo del popolo di Gallico e di Reggio di liberarsi da questa puzza, puzza di compromesso, puzza di calare la testa, di tutto quel che vogliamo, e non dobbiamo e non possiamo fermarci. L'Ampi di Reggio Calabria, e non solo quella di Reggio Calabria, sostengono la lotta del Cartella. Tante sezioni mandano il loro saluto al centro sociale, da Milano, dalla provincia di Massa Carrara, da Roma e via discorrendo. Sempre così, compagni, ora è sempre resistenza! Questa canzone è la rage, è la rabbia dei giovani che vivono nelle banlieue francesi, che provengono da tutto il resto del mondo, che dopo che i loro genitori hanno lavorato, sfruttati nelle varie imprese francesi, spesso volte i figli non si vedono riconosciuti i propri diritti di cittadinanza. E allora la rage sia contro questo mondo di sfruttamento. Invitiamo i compagni che vogliono parlare ad avvicinarsi al microfono, a fare sentire la nostra voce, a fare sentire la nostra voglia di dire la nostra verità. Adono. Adò. Io ti faccio ne capito mi vicino, lui si mi apparenza sempre cari, e mistero per mistero, to sgranam stu rosario. Il primo mistero è il mistero della crisi, tutti insieme salta a fare sacrifici, sacrifico lavoro voi sacrificate a me, e misteriosamente la questione più non c'è. Secondo mistero del lavoro nero, povera stai facendo con il Milan ancora esiste, la polizia impegnata c'ha troppo lavoro, in cambio mi stanno cercando i nuovi terroristi. Noi siamo la paranza di San Precario, la nostra resistenza combattiamo con rosari in processione a Reto Santa Camma anche esista. Siamo noi l'Italia che resiste. Il terzo mistero è dei che si inventano leggi per precarizzare la nostra vita. Ma quando è che si vende, che si farà una legge contro lo sfruttamento? Il quarto mistero, sicurezza sul lavoro, vittime siamo noi, colpevoli sono loro. Sarà per questo che non appena la chiediamo, per la nostra sicurezza ce levano la volo. Noi siamo la paranza di San Precario, la nostra resistenza combattiva con Rosario in processione a Reto Santa Gamma anche esiste. Siamo noi l'Italia che resiste. Solo la solidarietà dal basso può battere questo attacco. Vediamo che viene da Monti, che viene che dai Monti, dal valle, dal basso si può battere con la solidarietà sociale, costruendo auto-organizzazione. Mistero gamma ma addormenta notte e giorni. Non è tanto come fa che avvia senza scuola, ma come cosa fa? Casi con che li corna. L'ultimo mistero è delle considerazioni, considerato che ne si mamma liune, considerando come gambammi. Il mistero che non si capisce a chi aspetta ma. Noi siamo la paranza di San Precario, la nostra resistenza combattiamo con Rosario in processione a Reto Santa Gamma anche esiste. Siamo noi l'Italia che resiste. San Precario, San Precario. Contro mafiofoli, scendiamo in piazza. Human beings, politics need lies. That's why my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why my friend, it's an evidence. Il cartello lo rifacciamo! Il cartello lo rifacciamo! Il cartello lo rifacciamo! Tella lo rifacciamo! Tella lo rifacciamo! Perché da tutta Italia, da ogni posto, da ogni dove, stanno piovendo attestati di solidarietà, arrivano soldi, è stato aperto un conto corrente, su cui tutti quanti stanno svolgendo, stanno dando dei soldi, lo rifaremo, lo ricostruiremo. Questa manifestazione serve anche a chiedere questo. Trasparenza, vogliamo il dissequestro, vogliamo capire qual è il futuro del nostro posto, quel posto per cui ancora per anni abbiamo rappresentato l'unica opposizione sociale e costruttiva in questa città. Faccio piano! Attenzione a tutti i miei canzoni! Politics need ignorance. Battiamo ragazzi, dai, battiamo! Politics need force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need life. Andiamo piano, andiamo piano ragazzi, piano piano, andiamo piano. Allora, vieni, vieni. Vediamoci chi è che affetta il proletariato. Diamo un nome, diamo un'immagine a chi ha dato fuoco al cartella. Orgoglio di questo posto che si chiama Gallico, un piccolo posto che aveva dato luce al territorio, con questa realtà, per chi ha poche possibilità per divertirsi, per chi non può andare nei locali, per chi non ci può andare sempre, per chi ha bisogno di aggregazione. Diamo un volto a queste persone, diamo un volto alla Calabria, a Reggio Calabria, a Catanzaro, a Vibo, a Cosenza. Chi è che attacca? Chi è che attacca le realtà territoriali che lottano? Diamo finalmente un nome a questa forma di prostituzione che fa capo al governo. Vivono che stanno in ospedale, non è giusto che ancora l'arrate, dare in Spagna chi l'ha criata. Non è giusto che chi non ottene, senza scuola viene abbandonato. Non è giusto una creatura, venuta a pezzi troppo che è stata rubata. E non è giusto, per me non è giusto. E c'è le cune, non si dice. Non è giusto, per me non è giusto. E c'è le cune, non si dice. E non ti dimmi sura, lì che devi usare il nasi bus. إذا سميت بذاتك لي غاست الحق ذكي ونواس يحمل واسف ذي الشتوى يقيل سوين إلا ندي لطرس يا عيين الفقي سنر ناير راتور نبذر نصريس أندت سيدت يا أندت سيدت أتسان دقول من سديك أندت سيدت يا أندت سيدت أتسان دقول من سديك a manifestare la propria indignazione, la propria voglia di ricrescita, la voglia di rinascita del centro sociale Cartella. Gente di Gallico, voi sapete la verità, voi sapete qual è l'attività svolta in questi anni dal centro sociale Cartella. Non è giusto che un colpo inganna per le buone da insegnare. Non è giusto che luccicare a due scuro non è mai arrivato. Non è giusto una vita che fuoco in da munnezza. Non è giusto mio vado in croce e mano a mano care a piezza. E non è giusto, a me non è giusto. E c'è ne debole non si dice. E non è giusto, a me non è giusto. E c'è ne debole. Invitiamo i compagni che volevano parlare ad avvicinarsi al microfono. يصير في الزاذن كل سكولي ونين الزاذ ياوي نونا جوز كي بايس بابر وندلن ميني تاوت نونا جوز تبر درو نوم يديش كورت النوبل يفوق نونا جوز تدون جستان بات أسونا اندو سرور نونا جوز تنغان قبا تير بوردي ما قوز سولو منا والصاحي تيد تريكا ويخل فافو دي مطيم أوين في السهل ولو يا وليدي حذر يتروسي يانا انتي دي مزورة الكذب يوزل الناس بس إذا تسميت بذاتك لي نقص تقضى ذكي ونواه هانو ناتشوز مامينو ناتشوز هاتساني تيقول بن صديقة هانو ناتشوز مامينو ناتشوز يا تساني تيقول بن صديقة أندا تسيدات يا أندا تسيدات هاتساني تيقول بن صديقة أندا تسيدات يا أندا تسيدات هاتساني تقول بكون صديقة يا انت تسيدت يا انت تسيدت يا هاتساني تقول بكون صديقة يا انت تسيدت يا انت تسيدت. Perché il centro sociale Cartella si è sempre battuto in difesa del territorio come gli amici e i compagni del centro del Natale de Grazia che si sono battuti contro le scorie nocive nella Valle Oliva. Gianfranco Posa, uno di noi, è stato querelato per aver detto la verità in una trasmissione televisiva. Siamo solidali a Gianfranco Posa. fermiamoci, basta con l'odio, basta con l'indifferenza, basta con gli atti vigliacchi. Bruciare il centro sociale di notte è un gesto vigliacco, quando noi siamo per l'amore. Più bello di prima, da tutta Italia stanno piovendo soldi, è arrivata la solidarietà concreta, è stato aperto un conto corrente dove vari compagni, varie situazioni, da tutta Italia stanno levando soldi, e soldi noi non ne abbiamo, i soldi ce l'hanno le imprese, quelli che sfruttano, quelli che giudicano la nostra vita, quelli che si fanno fare le leggi per il precariato, quelli che molti foraggia, e noi dal basso vogliamo costruire altro, vogliamo costruire una nostra solidarietà, vogliamo il nostro posto dove ci guardiamo in faccia, dove abbiamo la possibilità di suonare la nostra musica, di mangiare, di guardarci negli occhi in libertà. Tell you where you belong, yeah, Mr. Ballet, tell me where you come from. Kapu pa Schengen, and I tell you, ah, I saw me jungle it in the west. Oggi vediamo quello che il cartello ha costruito per anni sul territorio di Reggio Calabria, sulla Calabria intera e sul resto d'Italia. Aggregazione sociale, lotta per il territorio, per la difesa del territorio, riqualificazione di un'area che era destinata allo spaccio di eroina e che da quando è entrato il cartello non è stato più possibile fare. Questo è ciò che il cartello ha costruito sul territorio, questa e altre, tante altre iniziative, la solidarietà ai migranti sfruttati sulla piana di Rosarno, la difesa della nostra terra avvelenata dall'andrangheta e dalla speculazione della borghesia mafiosa di questo territorio. Non c'è futuro, non c'è futuro senza la solidarietà dal basso. Questa crisi ce la vogliono fare pagare, ce la vogliono fare pagare, e per finanziare le grandi multinazionali, per finanziare chi specula sulle nostre vite. Ma noi diciamo no, noi ci poniamo di traverso. Monti, non pagheremo i tuoi debiti, i tuoi e dei tuoi amici mafiosi imprenditori. It's not what it seems. Lord God, have stanno presidendo questo corteo, a cui chiediamo qual è la legalità, qual è la legalità di chi per anni si è battuto contro le speculazioni mafiose, di chi per anni si è battuto contro gli inceneritori, contro le centrali a carbone, di chi dal basso ha espresso socialità, ha fermato l'eroina, ha fermato la disgregazione sociale. Queste forze dell'ordine che presidono oggi, chiediamo quale trasparenza, quale legalità. Questa manifestazione è in diretta nazionale su una web radio, transizione di fase, e ricordiamo che oggi anche chi non è presente sta ascoltando le parole, la voglia di rinascita, la voglia di riscatto di questa gente, della gente di Gallico, della gente del centro sociale Cartella. Ти дал нам умер, за гордя страчо Ваюка на кидю качо Прецеса е кафай, да не би нов пак Сулу фун на грижо Енге валиже да е гулет янка Е фан, мари маня франк Сута су сол е фун мига кемпа на мун Дико, фати ке ги обин да бато Фа сол да балато А ну пак е сол деше Фа на сол да балато А ну пак е сол деше da varie parti d'Italia a testimoniare tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al centro sociale Angelina Cartella, un centro sociale che da 10 anni si è fatto conoscere per le sue battaglie nel territorio, per le sue battaglie in difesa dell'acqua, per le sue battaglie in difesa dei migranti di Rosarno, per la sua scuola di italiano, una scuola di italiano rivolta ai migranti. Ebbene, salutiamo tutte le persone che sono qui, che ci stanno guardando dai balconi. Grazie ragazzi, scendete in piazza con noi, ma sappiamo che siete solidali con noi. E un grande applauso a tutti e a tutte le persone che ci stanno vicini in questo momento. Tutti insieme, noi Cartella lo rifacciamo, noi Cartella lo rifacciamo, noi Cartella lo rifacciamo! Noi Cartella lo rifacciamo! Un saluto a chi ci guarda dal balcone, ha smesso di farsi la barba pur di salutare il corteo! Venite stasera al concerto a ballare con noi, alla faccia di chi in un atto di vile, una notte al buio, come soltanto i vili sanno agire, al buio, mentre le nostre battaglie le facciamo sotto la luce del sole. A tutti. Questa nostra lotta è la lotta di chi non vuole più stare. E ci mettiamo la faccia oggi contro chi è venuto di notte, contro chi è venuto ha pensato che bruciando quattro mura avesse bruciato l'aggregazione sociale che il centro sociale occupato Angelina Cartella ha costruito in 10 anni di attività sul territorio. E questa è la migliore risposta che oggi possiamo dare a chi pensava questo. E ci mettiamo la faccia a difendere i nostri spazi, a difendere spazi di aggregazione di tutti. Vi ricordiamo che, come nel nostro stile, la giornata non finisce qua, ma ci sarà un'aggregazione con musica stasera, per cui invitiamo tutta Gallico a venire, tutta Gallico a portare i propri ragazzi, non farli andare per strada, non farli andare davanti al bar che diventano malavaranza per l'andrangheta. E come dice un compagno, si può sempre fare meglio. Ci siamo qua, continueremo, ci siamo, andremo avanti, perché noi ci mettiamo la faccia, non abbiamo la faccia di culo come i partiti politici, che si prendono il voto, che hanno la pretesa di controllare la nostra vita, che ci parlano di debito pubblico, dopo che loro il debito lo hanno fatto, dopo che si sono mangiati l'Italia, dopo che si sono mangiati la nostra vita, dopo che ci hanno costretto ad un futuro di precarietà. Perché noi il cartello lo rifacciamo! Scendete stasera, venite al concerto, venite a portare le vostre idee, le vostre speranze, i vostri timori, le vostre paure, sono anche le nostre paure, per un futuro precario. Noi il debito non lo vogliamo pagare, con quei soldi, con quel debito che finisce nelle banche, che finisce nelle multinazionali, noi vogliamo creare dal basso un'altra società, perché un'altra società è possibile, un altro mondo è possibile, uniti dal basso possiamo vincere! 1991, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale, officina 99. Curra, curra, guaglio, curra, curra, guaglio, yo, yo, yo, curra, curra, guaglio. Persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte, oh. Perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla è di una fragilità, è di una fragilità, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento dove sono, forse in un licenziamento in trunco ro padrono, forse una risata in faccia, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia e trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, è una sorta di apparente illogicità, ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Curra, curra, guaglio, yo, yo, yo, curra, curra, guaglio,